si è largamente finora sviluppato in area germanofona, però io sono italiano e in qualche modo la mia lettura è condizionata da questa provenienza geografica ed ecclesiale. Che cosa vuol dire appunto una lettura protestante italiana? Lo vorrei introdurre con un aneddoto che viene da una decina d'anni fa. Ero studente alla facoltà di teologia a Roma, alla facoltà Valdese di teologia, e ci fu una lezione di Jürgen Moltmann, il noto teologo di Tübingen, sul problema dell'unità, del ministero di unità nella Chiesa, un problema confacente al genius loci della città che ospitava la conferenza, anche se non proprio della facoltà. E Moltmann, a un certo punto, non ricordo bene il contesto, ha sviluppato un'argomentazione di questo genere, dice: nel futuro ecumenico della Chiesa un ministero di unità ci vuole. Se ci vuole un ministero di unità, potrebbe benissimo essere un ministero di tipo personale, quindi sostanzialmente episcopale. Se episcopale, perché no il vescovo di Roma? E gli studenti valdesi, protestanti italiani, eccetera, eccetera, rumoreggiavano. Al che Moltmann ha detto: cari amici, io capisco i vostri problemi, voi come piccola minoranza schiacciata da questa vicinanza, il Vaticano è a 500 metri, insomma, da questa vicinanza fisica, è un problema psicologico, ma non teologico. Al che si alzò una studentessa di Tübingen, tedesca, la quale disse: caro signor professore, lei parla spesso di teologia contestuale a proposito della Corea, del Sud America, insomma, di località esotiche. Ebbene, la posizione ecumenica del protestantesimo italiano va inquadrata in una teologia contestuale. Io ho trovato illuminante, intelligente, non banale questa risposta. Ecco, la mia è una reazione contestuale nel senso della studentessa di Tübingen. Secondo luogo, naturalmente, proporrò una lettura globale del documento, il che in certo senso significa anche abbastanza superficiale, perché per rendere giustizia all'alto livello del testo sarebbe necessario affrontare analiticamente le singole argomentazioni e conclusioni, cosa naturalmente impossibile. Cercherò invece di mettere in luce il rapporto tra l'Erferurteilungen e lo sviluppo generale del movimento ecumenico, così come noi lo viviamo dall'Italia, nonché alcuni nodi ermeneutici che il documento presenta. Alcune osservazioni di dettaglio avranno invece puro carattere esemplificativo. Primo punto: modelli di unità e condanne dottrina, e il documento, insomma. Il movimento ecumenico intende realizzare forme di unità visibile della Chiesa, ed è in questa prospettiva che si muove anche il nostro testo. L'elaborazione critica della storia di divisione delle chiese costituisce in questa prospettiva, cioè nella prospettiva dell'unità visibile, una assoluta necessità preliminare. Sotto questo profilo, il progetto di l'Erferurteilungen costituisce l'applicazione all'ambito della dogmatica dell'esigenza della riconciliazione delle memorie, la quale non intende, come dicono alcuni, cancellare i contrasti, censurare il passato, ma al contrario, esaminare intanto nel modo più spregiudicato possibile se e fino a che punto sia possibile oggi dare di questo passato una lettura comune. Quindi, in primo luogo, un impegno di tipo ermeneutico. E in secondo luogo, occorrerà chiedersi se il consenso ermeneutico eventualmente raggiunto sia utilizzabile in vista di un superamento delle opposizioni, in questo caso delle condanne dottrinali. Ecco, io credo che la necessità preliminare di un'impresa di questo genere non abbia bisogno di ulteriori illustrazioni. Se si vuole prendere sul serio la tradizione da cui si proviene, questo il documento lo ripete più volte, bisogna anche prendere sul serio le condanne dottrinali e quindi non semplicemente rimuoverle o passare oltre. In secondo punto, su questo, effettivamente, come è stato rilevato da diversi documenti, anche evangelici, di reazione, il nostro documento non precisa quale modello di unità visibile della Chiesa venga proposto. Da una parte però questo è comprensibile, perché il superamento delle reciproche condanne dottrinali è preliminare rispetto a qualunque concezione o modello di unità. Comunque uno si immagini l'unità della Chiesa, comunque il superamento delle condanne dottrinali è preliminare. D'altra parte però, appunto perché l'unità visibile è dichiaratamente l'obiettivo strategico di tutta l'operazione, è importante aver chiaro fin dall'inizio che tipo di unità si ha in mente, salvo poi naturalmente apportare in corso d'opera tutte le correzioni, anche sostanziali, se del caso. La questione del modello di unità è poi di capitale importanza per tutta la problematica sul ministero, che come vedremo è quella, è già stato detto del resto, è quella più che lascia trasparire ancora la maggior mole di lavoro da fare. Quanto io dirò presuppone il modello abbastanza corrente, anche se generico naturalmente in sé, di unità cristiana come comunione di chiese diverse e organizzativamente autonome, avente nell'assemblea di tutte le chiese cristiane, concilio ecumenico in questo senso, la sua massima autorità terrena. Tale modello viene a volte definito dell'unità nella diversità o delle diversità riconciliate e, per quanto ci riguarda, il sinodo delle nostre chiese, che appunto è l'autorità vincolante per quanto ci riguarda, l'ha assunto come proprio modello, questa idea delle diversità riconciliate, in un paio di documenti che appunto costituiscono un po' il riassunto della nostra, o di quella che dovrebbe, vorrebbe essere, il nostro atteggiamento ecumenico. Secondo punto, considerazioni generali sull'ermeneutica del nostro testo. Il materiale che viene utilizzato in vista della riconsiderazione delle condanne dottrinali del XVI secolo è costituito anzitutto dalle acquisizioni dell'esegesi biblica e della storia dei dogmi. In tal modo risulta l'intenzione, sembra essere, di evidenziare il ruolo normativo della scrittura, nonché il significato della tradizione delle due famiglie confessionali, in particolare dei concili, appunto, per la Chiesa, dei concili che la Chiesa cattolica considera ecumenici, qui anzitutto il Tridentino, ma anche il Vaticano I e il Vaticano II, da un lato, e dall'altro delle confessioni di fede della Riforma, come interpreti autorevoli del messaggio biblico, benché sia già stato ricordato che effettivamente all'interno delle rispettive tradizioni l'autorità dei rispettivamente dei concili e delle confessioni di fede si colloca su un piano diverso. Questo non tanto perché, a mio parere, perché i concili si autocomprendono come espressione dell'unica Chiesa, mentre le confessioni di fede si comprendono come espressione di chiese particolari, perché appunto le confessioni di fede della Riforma si comprendono come l'enunciazione della verità, anche loro. La differenza è che le confessioni di fede non hanno una natura, non si comprendono come documenti strutturalmente non riformabili. Al contrario, in genere si chiudono con la notazione esplicita, questo noi affermiamo, confessiamo, attestiamo, eccetera, eccetera, fin quando qualcuno non ci istruirà meglio e diversamente sulla base della parola di Dio. Cioè le confessioni di fede della Riforma sono strutturalmente aperte, ed esplicitamente anche, fa parte della loro autocomprensione la rivedibilità di principio. Questo colloca, cioè introduce, se non proprio una simmetria, comunque una differenza obiettiva di statuto tra i rispettivi documenti dottrinali nei quali si trovano le condanne. Dal punto di vista propriamente ermeneutico, poi, in una quantità di punti, che è impossibile elencare in dettaglio, ma farò qualche esempio, non si riesce a evitare l'impressione, del resto già il tema è echeggiato ieri sera, l'impressione che il testo conferisca spesso a termini chiave della tradizione dottrinale un significato diverso rispetto a quello, secondo scienza e coscienza, abbastanza chiaramente ricavabile dal testo originale. Una commissione teologica, ad esempio, elenca l'interpretazione offerta dal nostro testo a proposito della giustificazione, quindi del tema su cui più ampio, più consistente e sostanzialmente conclusivo è il consenso, però l'interpretazione di termini come cooperatio, meritum, liberum arbitrium, nel loro uso da parte del tridentino. Altri esempi si potrebbero fare tratti dalle confessioni di fede. Nella relazione finale che accompagna il documento, il problema viene affrontato in questi termini, cito: le chiese, i loro docenti di teologia e pastori devono interpretare le confessioni di fede e le affermazioni dottrinali evangeliche e le affermazioni magisteriali della Chiesa Cattolica Romana alla luce delle acquisizioni qui, cioè nel documento, formulate. È un'affermazione comprensibile naturalmente all'interno del documento, ma un po' strana, nel senso che normalmente qualunque interpretazione deve attenersi anzitutto alla lettera, all'intenzione e al contesto dell'originale, poi ulteriori istanze ermeneutiche sono rilevanti se e nella misura in cui contribuiscono a elucidare l'originale. Normalmente si procede così per qualunque testo. Ora, la rilevanza e le conseguenze di questo punto sono espresse con chiarezza, a mio parere, nel rapporto di una commissione teologica insediata appunto per valutare questo documento da parte delle chiese dell'Arnold Zeiner Conference, che cito questo parere perché secondo me esprime bene il problema. Dice: la messa in guardia propria del documento da un'interpretazione delle confessioni di fede e dei documenti dottrinali condizionata da erronei pregiudizi confessionali merita attenzione. Cioè, giustamente il documento dice: quando leggete le condanne dottrinali, attenzione a non proiettare tutto il vostro conscio o inconscio pregiudizio confessionale sulle definizioni del tridentino. Bene. Tuttavia, nell'interesse, prosegue, della verità e della chiarezza, occorre tuttavia anzitutto chiedere se vi siano affermazioni delle confessioni di fede evangeliche o del magistero cattolico che, alla luce di nuovi Einsichten, diciamo, di nuovi punti di vista, nuovi o più approfonditi, non possano più essere sostenuti nella loro formulazione originale, nicht mehr so vertreten werden können. A questo punto, prosegue, il riesame delle condanne dottrinali conduce a una domanda ineludibile posta all'autocomprensione del magistero, tra virgolette, infallibile cattolico romano. Anche nella relazione finale, dice sempre questa commissione, resta non chiarito se l'affermazione del condizionamento storico delle affermazioni dottrinali e delle proposizioni di condanna sia compatibile con l'autocomprensione del magistero cattolico. Si tratta, lo sottolineo, di una questione ermeneutica che però ha rilevanza dottrinale e che va distinta dall'altra, a cui solo le chiese possono rispondere, se e in che misura l'interpretazione delle rispettive dottrine proposta dal documento corrisponda effettivamente alla loro attuale autocomprensione. Il documento giunge a conclusioni differenziate a proposito della Kirchentrennende Bedeutung, cioè quindi del significato rilevante per una divisione tra le chiese delle condanne dottrinali del XVI secolo. È già stato ricordato questa differenziazione, questo spettro di possibilità, lo ripeto, alcune riguarderebbero fraintendimenti nella posizione dell'interlocutore, altre avrebbero di mira posizioni estreme, propri di singoli teologi o contenuti in singoli testi, in quanto tali non rappresentative dell'effettiva autocomprensione globale della Chiesa, altre non potrebbero essere riferite all'attuale dottrina dell'interlocutore, non treffen, non colpiscono più l'interlocutore di oggi. Un caso ulteriore è quello che vede emergere comunque un'ampia base di consenso. Rimangono però, dice il nostro testo, condanne dottrinali a proposito delle quali non è possibile oggi constatare un sufficiente consenso. A proposito di queste ultime, appunto, ci si deve chiedere se giustifichino il permanere della divisione tra le chiese. Allora, alcuni hanno obiettato, se non ieri, anche da parte cattolica mi pare, e anche alcune commissioni teologiche protestanti hanno obiettato che Purtroppo qui però manca il criterio per stabilire quando una divergenza ancora sussistente sia Kirchentrennend o meno. Se ho capito bene però, questo criterio nell'ottica del documento non può essere definito in modo formale, cioè non ci sono dei criteri formali in base ai quali si può dire le differenze che rientrano in di un certo tipo, allora non sono da ritenere Kirchentrennend, le altre sì. La decisione se una differenza dottrinale effettivamente ancora sussistente, per quanto capisco, può vedersi attribuita Kirchentrennende Bedeutung, può essere solo individuata caso per caso dalla Chiesa, dalle Chiese coinvolte. Non c'è, credo, una soluzione, un criterio formale. Se ci fosse, il problema sarebbe già risolto. Caso per caso, allora, siamo divisi, non so, vedremo alcuni punti, no? Sulla nostra comprensione del ministero. Bene. Allora, questa divisione sul ministero vuol dire che non ci possiamo scambiare, che abbiamo un altro spirito, come diceva Lutero a Zwingli, che non ci possiamo scambiare la mano di associazione, che non possiamo attribuirci reciprocamente il titolo di fratelli, perché in ultima analisi questo vuol dire Kirchentrennende Bedeutung, se si prendono sul serio le parole. Ecco. A questa domanda naturalmente deve rispondere la Chiesa, non è possibile definire un criterio a priori, questa almeno è la mia impressione, però ho notato che invece commissioni teologiche più attrezzate del sottoscritto dicono no, qui bisogna che ci sia un criterio formale in base al quale discriminare. Su questo mantengo una perplessità. Ecco, alcune considerazioni, diciamo, più di dettaglio sui singoli punti. Beh, per quanto riguarda la giustificazione, adesso al di là di un sacco di considerazioni, di dettaglio che si potrebbero fare, eccetera, eccetera, anche prendendo atto di quello che è stato giustamente rilevato, che effettivamente appartiene alla natura di questi documenti il fatto che per evidenziare il consenso la dottrina venga a volte presentata in modo tale da non rendere giustizia al carico di storia che ha alle spalle. Effettivamente questo succede, perché uno dice vabbè, ma insomma è tutto qua. Ecco, tenendo conto di questo, che è giusto, però uno non può non salutare, insomma, beh, sono contento, il fatto che se, come si dice, se le commissioni teologiche in genere dicono, se quella che il documento presenta come la presa di posizione dell'altra Chiesa oggi corrisponde effettivamente all'autocoscienza di quella Chiesa, se le cose stanno così, allora l'altra Chiesa non incorre nelle condanne dottrinali del XVI secolo, appunto. Se l'autocomprensione cattolica della giustificazione è quella che il documento presenta, io credo che certamente ciò che l'Augustana, l'Apologia, tanto più il Catechismo di Alba, volevano condannare, non è quello che il documento presenta come la posizione dell'interlocutore. Bene, questo credo che comunque è un paletto, uno dice, lo sapevo già prima, uno può dire, e anche questo è giusto. È dal 57 che è stato scritto un libro per dire questo, per dire sostanzialmente che l'autocomprensione della Chiesa Cattolica, come si esprime nel Tridentino, insomma, corrisponde, non è incompatibile, anzi, con quella della dottrina evangelica della giustificazione, così come proposta da Barth. Kung ha scritto nel 57 il suo libro Rechtfertigung per dimostrare questo. Allora uno dice, beh, non è una grande scoperta, però che ci sia in un documento, non solo in questo, poi che venga a vari livelli recepita, è il presupposto perché entri a far parte dell'autocoscienza della Chiesa, per esempio delle Chiese evangeliche. L'evangelico normale, che non so come chiamarlo, in Italia o all'estero, non sa, cioè sarebbe francamente sorpreso di fronte a un'affermazione del genere. E allora è interessante anche per il povero pastore avere alle spalle non solo la posizione di Hans Küng o di qualche altro teologo evangelico altrettanto dotto, eccetera, eccetera, ma un documento ecclesiale dice, guarda, questo è sottoscritto, questo dicono. Vuoi spiegare ai cattolici le loro idee? Vuoi spiegare a loro cosa loro pensano della giustificazione? No, devi accettare quello che ti dicono. Ti dicono questo, tu come evangelico lo accetti? Sì, bene. Ecco. In questo senso il lavoro, a volte, musam proprio, cioè, faticoso, stressante, è un po' tendente a girare in tondo effettivamente, che si ha quando si lavora in ambito ecumenico, però bisogna apprezzare il risultato quando c'è, per quanto riguarda la giustificazione. La tematica sacramentale invece è troppo, troppo articolata, il documento prende in esame i sacramenti uno per uno, ne esclude alcuni rimandando ad altro, ma è troppo articolata per poter essere presa in esame, però mi limito ad alcune considerazioni. Anche qui, una messa in cui la nozione di sacrificio non sia compresa come complemento integrazione ergänzung dell'unico sacrificio di Cristo, che non conduca all'adorazione degli elementi, che non valga come espiazione per i morti, certamente è cosa diversa da quella che la Riforma ha inteso respingere. Punto. Poi, l'applicazione della nozione di sacrificio alla celebrazione eucaristica, che secondo intenderebbe esprimere l'idea per cui la celebrazione attualizza, facendo nel memoriale, l'unico sacrificio della croce, certamente può restare problematica a parere di molti teologi evangelici, anche a parere della sensibilità linguistica di un evangelico. Cioè, uno può continuare a dire, spiegare l'Eucaristia dal punto, con la nozione di sacrificio, dal mio punto di vista, per la mia tradizione, eccetera, eccetera, non è particolarmente illuminante. Benissimo. Ma questo implica, può responsabilmente giustificare la divisione ecclesiale? No, io credo, perché quello che la Riforma voleva condannare non era un'interpretazione piuttosto che un'altra, ma se capisco bene le confessioni della Riforma, la Riforma intendeva condannare l'idea, che secondo il documento costituisce un fraintendimento, l'idea secondo cui il sacrificio della messa in qualche modo intaccava l'unicità del sacrificio di Cristo. La famosa domanda 80 del documento di Heidelberg, che risponde, secondo la quale insomma la messa sarebbe una gemaledeite abgotterai, cioè questa espressione che oggi alcuni non osano più neanche citare per la sua effettivamente urtante carica insolente, una maledetta idolatria, ecco, lo era nel senso che l'unicità del sacrificio di Cristo veniva, secondo il catechismo di Heidelberg, così loro avevano capito, veniva messa in questione. Siccome parrebbe che questo non è il caso, basta, il problema non è questo. La questione invece delle categorie che tu utilizzi, cioè del fatto che appunto ad esempio la categoria di sacrificio ti sembri significativa oppure no, utile oppure meno, ecco, è un'altra questione rispetto a quella che le confessioni di fede evangeliche hanno condannato, che non può avere, perché non può avere chi c'entra nel debedoritum, perché le questioni di scuola non possono comunque, insomma, in linea generale, rivendicare, credo, questa pertinenza, se no è finita. In realtà i problemi maggiori, già è stato messo in evidenza, in questo, paradossalmente, ma non troppo, anzi per niente, le commissioni teologiche insediate dalle chiese evangeliche sono d'accordo col Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani. I problemi maggiori non sembrano riguardare tanto la dottrina dei sacramenti in senso stretto, ma il rapporto tra la celebrazione dei sacramenti e il ministero detto ordinato. Insomma, il criterio è questo: più ci si appropinqua al tema del ministero, più la faccenda diviene effervescente, più si scalda. Il che uno potrebbe anche interpretare il fatto, in questa prospettiva, per l'autocomprensione delle chiese sembrano essere più importanti i ministeri dei sacramenti, ad esempio, o perlomeno tali da suscitare maggiori conflittualità, non lo so, più i ministeri della giustificazione. Ma vabbè, questi sono i sviluppi, ognuno può fare l'uso che crede. Comunque, la questione del ministero. Il testo, dopo aver rilevato che la dottrina evangelica non attribuisce ai ministeri ordinati o consacrati o riconosciuti, altri dicono, il testo utilizza giustamente la terminologia tedesca, che appunto dice ordiniert, le confessioni di fede della Riforma non riconoscono ai ministeri ordinati una particolare potestas, però il documento afferma, a proposito della posizione delle chiese evangeliche, la particolare chiamata alla predicazione pubblica e all'amministrazione dei sacramenti che si esprime nell'ordinazione, Non è tuttavia una misura riguardante l'ordinamento esteriore, una diaforon, ma, secondo il documento, esprime il fatto che la comunità cristiana non vive di quanto le appartiene, ma piuttosto di qualcosa che le è di fronte, di un Gegenüber, cioè della parola di Dio e dei sacramenti che appartengono a Dio. Solo in una situazione di emergenza della Chiesa, secondo la concezione evangelica, un laico può esercitare il ministero della parola e dei sacramenti nella misura in cui ne è incaricato in forma esplicita. Io non entro nel merito, voglio solo dire che sulla premessa si incontra un consenso generale, cioè sul fatto che la Chiesa non vive di se stessa, ma di questa realtà che le sta di fronte, cioè della parola di Dio e dei sacramenti che appartengono a Dio e di cui essa non può in alcun modo appropriarsi e che quindi non sono lasciati al suo arbitrio, eccetera, eccetera. Su questo credo qualunque Chiesa evangelica sarebbe d'accordo, anzi moltiplicherebbe le sottolineature e i punti esclamativi. Non è detto che da questo segua che solo in una concezione di situazione di emergenza un laico, cioè un non ordinato, possa celebrare la cena. De facto questo accade normalmente in moltissime chiese evangeliche del mondo. Il fatto è che il documento naturalmente presuppone l'autocomprensione delle chiese che fanno riferimento alle cadee, alla chiesa evangelica tedesca, che sono chiese luterane ma anche riformate. Ma certamente questo sarebbe un problema, insomma. Oltre a presupporla, in questo non c'è nulla di male, appunto, che uno presupponga la situazione da cui parte, è soltanto giusto. Solo che tende un po' a teologizzarla, dal mio punto di vista, cioè a considerarla non semplicemente de jure umano o addirittura di tradizione, ma de jure divino per quanto riguarda la fede evangelica. Non si tratta di un ordinamento esteriore, questa idea del ministero, ma è legata alla natura stessa della parola e del sacramento. Ecco, su questo certamente in ambito evangelico non c'è consenso, su questo si può dire tranquillamente, un'affermazione, non solo in Italia, un'affermazione del genere non corrisponde all'autocomprensione generale delle chiese evangeliche. Ci sono varie tesi sul ministero. Anche un'altra frase molto pesante, molto forte. L'idea dell'ordinamento non è collegata al ministero solo esteriormente, dice il testo, ma oggettivamente, poiché la chiamata e l'autorizzazione al ministero istituito da Dio per la parola e il sacramento, all'amministrazione dei sacramenti invece di Cristo, accade con il comando e la promessa di Dio nell'ordinazione. Cioè l'ordinazione qui è ritenuta, dal punto di vista evangelico, come il momento, insomma, in cui la chiamata e la promessa di Dio sono presenti, per così dire, in forma qualificata. Il documento prosegue dicendo: questa autocomprensione non è sostanzialmente diversa, a parere del documento, da quella della Chiesa Cattolica Romana. Questo non lo so, certamente è sostanzialmente diversa da quella, dalla prassi, ma anche dalla dottrina di molte chiese evangeliche, secondo cui l'ordinazione, la consacrazione o il riconoscimento della chiamata, comunque venga definito il rito, l'ordinazione non ha un significato dirimente in ordine alla possibilità della chiamata alla presidenza dell'Eucaristia o alla predicazione dell'Evangelo. Questo è un fatto. Naturalmente questo vuole anche dire che effettivamente al momento regna, che io sappia, in ambito evangelico, grande confusione sulla teologia del ministero. Cioè, non c'è una teologia del ministero, una visione del ministero che incontri il consenso, e questo ha delle conseguenze pratiche notevoli perché conduce a una prassi che a volte è sconcertante anche per chi la vede dall'interno. Io questo lo dico con molta franchezza, anche per chi la vede dall'interno. Cioè, certamente un riformato della Vestfalia, si troverebbe, diciamo, dal punto di vista del clima liturgico e dell'autocomprensione anche del ministero che in esso si esprime, si troverebbe più a casa sua in un culto cattolico della Vestfalia che non in una chiesa evangelica italiana. Un riformato, non parliamo di un luterano scandinavo, ecco, allora. Questo è, da un lato dipende da fattori culturali, eccetera, eccetera, che richiedono solo abitudini. Dall'altro, però, io temo, effettivamente è spia di una situazione di confusione in cui, da un lato, si è data enfasi nell'ecclesiologia evangelica, o in certa ecclesiologia evangelica, non in quella di Wolfhard Pannenberg, ad esempio, che è uno degli estensori di questo documento, ma in altri, si è dato enfasi al sacerdozio universale assunto nella sua radicalità. Radicalità. Dall'altro lato, però, poi si è avuta difficoltà a coordinare in modo teologicamente chiaro questa dimensione, non solo il sacerdozio universale, ma in generale, insomma, la questione del ministero della Chiesa e dei suoi membri come tali, con il ministero della parola. Col pastorato, il ministero della parola appunto non è privilegio del pastorato, benissimo, allora il pastore cosa ci sta a fare? È semplicemente uno che ha più tempo di altri per fare questo, e questa è la discriminazione? No? Allora qual è? Ecco, su questo effettivamente uno può dire non c'è chiarezza. C'è chiarezza in chi sostiene tesi tipo quella qui espressa, ma per altri, soprattutto all'interno delle chiese riformate, effettivamente la situazione è più fluida. Anzi, fluida è un eufemismo, vuol dire confusa. Oh, per quanto riguarda il ministero, appunto, è chiaro che nella fase attuale del dialogo ecumenico tra cattolicesimo romano e protestantesimo, le questioni inerenti al ministero ecclesiastico, ho già detto, sono quelle che fanno registrare le maggiori difficoltà. Mi limito a poche considerazioni tra le molte. Intanto il problema centrale riguarda appunto il rapporto tra sacerdozio universale dei battezzati e ministero ordinato. Il nostro documento fa propria la posizione cattolico-romana, qual è presentata nella Lumen Gentium, numero 10, per cui nel vocabolario cattolico-romano il sacerdozio ministeriale è distinto da quello battesimale secondo l'essenza e non solo secondo il grado. Lo fa proprio e dice, proprio questo voleva dire la Riforma, perché la critica della Riforma, secondo il documento, riguarda l'idea di uno stato personale di grazia più elevato, quindi appunto proprio di una differenza di grado, conferita al sacerdote dall'ordinazione. Questo è quello che la Riforma rigetta. Al contrario, dice il nostro testo, anche secondo la concezione evangelica, il ministero ordinato è diverso rispetto ad altri incarichi conferiti dal Signore ai cristiani, non si colloca sul loro stesso piano. Conclusione, cito: il ministero ecclesiastico non è derivabile, ab Leitbar, dalla comunità, ma ha la sua origine in una missione istituzione divina. Di conseguenza, i ministri, nell'adempimento del loro incarico, agiscono anche secondo la comprensione evangelica, non a loro proprio nome, ma rappresentano la persona di Cristo secondo la promessa: chi ascolta voi, ascolta me. Colui che propriamente agisce nella parola e nel sacramento è Gesù Cristo stesso, mediante la potenza dello Spirito Santo. Certo, chi lo nega, questo è chiaro, voglio dire, questo è quello confessato e sperato, ubi et quando visum est Deo, così è, in effetti, Cristo stesso agisce nel sacramento. Tutto questo, però, non implica, dal punto di vista evangelico, che io sappia, non implica necessariamente conseguenze di questo genere per quanto riguarda l'ordinazione. Qui si intrecciano problemi diversi, di nuovo. Che predicazione e sacramento abbiano la loro origine nella volontà di Dio, che chi predica e presiede la celebrazione dei sacramenti, ordinato o no, aggiungo io, agisca non in nome proprio ma nel nome del Signore, che nella parola del sacramento in spe agisca Cristo stesso, nel suo spirito, ecco, tutto questo è chiaro. Che poi il ministero della predicazione e dell'amministrazione dei sacramenti sia diverso da altri è addirittura ovvio. È chiaro che è diverso. Si può anche dire che non è esattamente sullo stesso piano degli altri, in quanto, per esempio, un primato dei ministeri, al plurale, perché non è solo quello della predicazione, comunque un primato dei ministeri della parola corrisponde in qualche modo al primato della parola stessa, secondo ad esempio 1 Corinzi 12, 28, cioè i ministeri citati per primo, a cui in qualche modo compete un primato, sono i ministeri legati alla predicazione e all'insegnamento, perché vivono del primato della parola di Dio in qualche modo. Bene, solo che cosa si vuol dire propriamente affermando che il ministero ordinato non è derivabile dalla comunità. Se si vuol dire che la comunità non crea da sé i propri carismi, vabbè, questo è chiaro, la comunità può solo riconoscere i doni che lo Spirito ha elargito. Se invece ci si vuol contrapporre all'idea del ministero ecclesiastico come articolazione diversa dalle altre, ma comunque tra le altre, anch'esse altre operate dallo Spirito, del sacerdozio battesimale, se si vuol dire questo, che il ministero non è una articolazione del sacerdozio battesimale, ma qualcosa d'altro, se si vuole riservare al ministero ordinato o adesso in forma essenzialmente particolare la nozione di successione apostolica, come fa Pannenberg nella sua dogmatica, che è un testo che può aiutare a capire cosa gli si vuol dire, ecco, allora ci si avvia con passo deciso su una chiesa che, su una strada che certamente può darsi, non senza difficoltà a quanto pare, comunque può darsi che faciliti effettivamente un'intesa con Roma, ma troverebbe qualche difficoltà, io credo, anche a causa della confusione di cui ho detto per quanto riguarda la teologia ministeriale, questo resta, però troverebbe qualche difficoltà a imporsi in sede ecumenica, diciamo, all'interno del mondo protestante. Lo Spirito di Dio crea i ministri della Chiesa e la comunità li riconosce nei suoi membri attraverso varie modalità, che dipendono dalle diverse tradizioni e sensibilità. Punto. Questo è quanto molte chiese riformate, ma forse non solo, affermerebbero su questo punto. Il linguaggio del documento e le intenzioni che tale linguaggio sembra esprimere, appunto, favoriscono, certo, io credo, una maggiore comprensione con la tradizione cattolica e scontano una difficoltà sull'altro fronte. Probabilmente è inevitabile. Cioè, fin quando non ci si chiarisce le idee in ambito protestante sulla teologia del ministero, è inevitabile che questo accada. Come è stato ricordato, dulcis in fundo, il documento si conclude con un paragrafo relativo al papato, il cui senso e la cui intenzione è stata ieri già evidenziata dal padre Ferkreuz. Anche qui credo che occorra constatare che le commissioni teologiche, alcune perlomeno, insediate dalle chiese evangeliche per valutare il documento, si trovano d'accordo col Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani nel dire che effettivamente il problema dal punto di vista dogmatico, cioè dei dogmi e delle condanne dottrinali ad essi legate, il problema dogmatico che ci troviamo di fronte oggi a proposito del papato è certo diverso da quello di Lutero, non però nel senso che è meno complesso, nel senso che lo è di più, perché tra Lutero e noi c'è il Vaticano I. Questo viene richiamato ed è un fatto che va elaborato. Naturalmente questo lo sanno anche gli autori del documento e prendono in considerazione il problema e propongono un'interpretazione del Vaticano I alla luce del Vaticano II che a loro parere aiuta a integrare la teologia condensata nelle definizioni del Vaticano I in una prospettiva ecumenica. Ecco, sulla praticabilità, insomma, sul fatto che questo processo ermeneutico possa effettivamente essere condiviso, il discorso è molto ampio e va lasciato aperto. Solo l'affermazione secondo cui il Papa oggi non può più essere definito l'anticristo, che è un dato a cui il documento sembra attribuire una certa importanza, appunto questo è evidente, i motivi lo dice il documento stesso, cioè già il fatto puramente storico e inerente alla mentalità, il venir meno di un'ottica apocalittica, priva la nozione di anticristo del suo contesto all'interno del quale soltanto esso riceve senso. Questo è chiaro, appunto. Sul fatto poi che appunto la nozione abbia portato a delle conseguenze dal punto di vista ecumenico poco utili, ecco, anche questo è facilmente riconosciuto. Con ciò però il problema non è nemmeno sfiorato, non vuole affatto dire che per sé, dico per sé, questa constatazione non vuole affatto dire che oggi il problema sia più semplice, anzi, ripeto, dal punto di, siccome qui si tratta di Lehrverurteilung, cioè quindi appunto di dottrine e di dogmi, proprio da questo punto di vista, da altri è diverso, ma da questo punto di vista, in cui le modalità di esercizio del primato, di cui parla l'autonomous synthesis, non c'entrano, sono un'altra cosa, dal punto di vista delle Lehrverurteilung, la situazione si è notevolmente, notevolmente complicata. La possibilità di principio, secondo cui il Vescovo di Roma possa svolgere una funzione primaziale di carattere ecumenico e non meramente interna al cattolicesimo romano, viene esplicitamente presa in considerazione con riferimento alle chiese luterane. E va bene, nel documento si dice che è in corso questo dibattito, questo effettivamente corrisponde a un'osservazione che Giovanni Paolo II fa nella Utunum Sint, dove si dice a un certo punto che questo significato ecumenico del Vescovo di Roma non è più tematizzata in ambito ecumenico solo nei dialoghi bilaterali con Roma, ma anche più generalmente, dice il testo, l'Autunum Sint, nell'insieme del movimento ecumenico. Ecco, se questo sia un dato di cui il movimento ecumenico deve andare fiero è altra questione. Così è comunque. La mole, una parola sola di conclusione, la mole e la qualità del lavoro presentato in questo testo esigono comunque da parte delle chiese intanto la debita gratitudine e la massima attenzione. Che cosa voglia dire attenzione? L'ha già detto ieri il professor Fekrois. Attenzione vuol dire che non vale qui l'os me paolino, cioè il come se non. Coloro che leggono i documenti facciano come se non li leggessero. Questa è effettivamente prassi ecumenica consolidata. Cioè, prassi confessionale, scusate, consolidata. All'interno delle confessioni si va avanti come se non. Ci sono come due tavoli e tra questi tavoli non c'è nessuna comunicazione. Nessuna comunicazione vuol dire che quanto si è raggiunto su questo tavolo non ha conseguenze in qualche modo constatabili sul piano della predicazione, sul piano della catechesi, sul piano della formazione dei futuri pastori, eccetera, eccetera. Allora, tra la proposta del documento, che è leggete le vostre confessioni di fede a partire da quello che diciamo noi, questa è la prospettiva ecumenica, ecco, tra questa proposta e la proposta che ignora semplicemente il fatto che una prospettiva ecumenica sia stata nel frattempo elaborata, è possibile probabilmente orientarsi. Uno può anche, secondo me, leggere i documenti secondo appunto quanto la filologia e tutte le altre stregonerie nel frattempo elaborate suggeriscono, tenendo però conto del fatto che esiste una riflessione teologica di tipo ecumenico. Questo non viene fatto coerentemente. Prendere in considerazione con gratitudine questi risultati vuol dire farlo, è molto banale. Dal punto di vista metodologico il documento mostra quali siano le potenzialità di un'ermeneutica avvertita. Non bisogna, a mio parere, non bisogna cedere, diciamo così, a un atteggiamento demagogico secondo cui si dice vabbè, ma qui con l'ermeneutica un po' di qui, un po' di là, insomma, si stiracchiano i testi per far dire tutto. Questo rischio effettivamente c'è, non è che lo apprendiamo adesso, c'è sempre stato. Dall'altra parte però bisogna prendere sul serio le potenzialità, qui si ha un esempio buono di quali siano le potenzialità, poi puoi dissentire su questo o quell'aspetto, su questa o quest'altra applicazione dello strumentario ermeneutico e dire questa è una forzatura, questo è un altro discorso. Qui tu hai un esempio delle potenzialità di un'ermeneutica avvertita in ambito ecumenico. Potenzialità vuol dire che prima di dire che appunto i giochi sono già fatti, prima di pestare i pugni sul tavolo, ci sono degli spazi, non infiniti, perché appunto ai testi non si può far dire tutto il contrario di tutto, sono degli spazi finiti, limitati, circoscritti, che però vanno esplorati e fino in fondo. Se c'è una responsabilità del teologo è proprio questa, quindi grazie quando un gruppo di teologi lo fa a questo livello di eminenza. In sede di valutazione bisogna anche dire che quello che ho fatto io, cioè individuare i limiti o eventuali punti di dissenso, è lo sport più facilmente praticabile. Questo sono capaci di farlo tutti, infatti l'ho fatto anch'io. Quello che effettivamente sarebbe necessario fare sono le eventuali proposte per andare oltre. Questo, chi legga anche solo con attenzione la mole di risultati qui proposta, la massa delle argomentazioni e il sapere che in esso è condensato, ecco, chi lega anche solo questo si rende conto che andare oltre certamente non è facile. Non è facile. E questo è il riconoscimento, insomma, che non può non essere fatto dopo una lettura di queste 150-180 pagine. Grazie.